Da voce del Vangelo, DICHECHOSAHAIPAURA. Le risposte sono diverse. Insuccesso, povertà, abbandono, violenza, guerra, sofferenza, morte, tutto. Siamo in molti ad avere paura. Paura di trovarci coinvolti in una guerriglia, di dover assistere ad una rapina, di dover vedere il sangue, la morte. Altri hanno paura del futuro, per i loro figli e per il mondo in cui vivranno. Hanno paura di non poter pagare la casa, di non aver sicurezza nella loro vecchiaia. Ma cosa ci si può fare? Il mondo non si cambia dall'oggi a domani, probabilmente domani sarà peggio di oggi. Non basta mettersi a gridare, basta, fermatevi, non ammazzatevi più. La gente continuerà ad ammazzarsi e a farsi del male, a sfruttarsi e a trattarsi ingiustamente. E poi c'è la paura di dentro. Paura di fallire, di non riuscire a tirare su la famiglia, paura di ammalarsi e di non poter provvedere ai propri cari. Lo psicologo ti consiglia, analizza le tue paure, vedi se sono irrazionali o se ci puoi fare qualcosa. Se sono irrazionali, dimenticale, se ci puoi fare qualcosa, tirati sulle maniche e agisci. Ma non riesco a reagire. La paura di oggi mi pesa e quella di domani mi pesa ancora di più. Avrei bisogno che qualcuno mi venisse incontro, ma il mondo mi è nemico, nessuno stende la mano per aiutarmi. Ma la mano c'è. La mano di Dio. Dio? Sì, egli ti offre tre grandi doni: fede, speranza, amore. Sono i tre rimedi alla paura. Hai bisogno di scoprire una fede vera, fondata su qualcuno al di fuori di te stesso. Uno che sia veramente disinteressato, pronto a darti la sua vita e di fare quello che tu non potresti fare mai. Hai bisogno di cominciare a prendere Dio in parola, di credere che Egli è venuto, che la Bibbia è il libro attraverso il quale ti parla e ti promette una salvezza che può cambiare tutta la tua vita. Gesù disse: "Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in esuberanza". E dentro alla fede ci è la speranza. L'Apostolo Paolo disse: "Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?". E nel realizzare la speranza trovo l'amore di un Dio che non mi lascia, che è morto per me, che mi dà tutto per chi mi dà se stesso. Ma come posso arrivare a questa fede, raggiungere questa speranza, ricevere questo amore? Conoscendo Cristo come la Bibbia te lo presenta. Parlagli adesso in questo momento, digli che vuoi la liberazione delle tue paure. Parlagli con onestà. O Dio, sii placato verso me, peccatore. Signore, salvami. Parlagli con sincerità, senza riserve. Signore, io credo. Sovvieni alla mia incredulità. E la risposta sarà piena di conforto. Non temere, io ti aiuto. Afferma la parola di Dio. L'amore perfetto caccia via la paura. Se hai paura, non è in te l'amore perfetto. Tu vuoi l'amore perfetto, vero? Chiedilo con fede.